Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio a tutti, buon inizio settimana da Deborah Rosciani. È ormai iniziato il conto alla rovescia per la prima scadenza di pagamento dell'IMU, la tanto discussa tassa sugli immobili di proprietà, e dai comuni non sembrano arrivare buone notizie in merito ai possibili aumenti delle aliquote che ciascun sindaco ha il diritto di definire. Ci si aspetta insomma una vera e propria stangata, soprattutto, come abbiamo ribadito tante volte, per i titolari proprietari di una seconda casa. Nel frattempo, per l'acconto da versare entro il 18 giugno, quindi lunedì prossimo, ci si fermerà alle percentuali base decise dal governo: 4 per mille per la prima casa, 7,6 per mille per la seconda. Altre due le rate previste per chi decide il pagamento in tre rate, il 17 settembre e il 17 dicembre, comprendendo in quest'ultima il conguaglio. Si intensifica nel frattempo la richiesta di un posticipo, che però mi sembra assai improbabile, per il versamento dell'acconto. In prima fila ci sono i CAF, i centri di assistenza fiscale. Prima scherzavamo con l'ospite che fra un po' vi presento, che sono letteralmente in lacrime. Poveri sono preoccupati perché intanto il calcolo della stessa IMU per molti nuclei familiari, molti contribuenti, è piuttosto complicata. E poi c'è la contestuale scadenza appunto della dichiarazione dei redditi, il pagamento per modello unico, IRPEF e quant'altro. Oggi a Salva Danaio torniamo a rispondere alle vostre domande, ai vostri quesiti in merito a quella che ormai è diventata la tassa tristemente più famosa e più discussa d'Italia, quindi IMU, ultima chiamata. Cristiano Dell'Oste, bentornato, buongiorno. Buongiorno Deborah. CAF disperati in queste ore, vi sono arrivate delle sollecitazioni in questo senso anche a voi al Sole, al Quotidiano? Ma diciamo che ci sono ancora un po' di dubbi legati al pagamento dell'imposta, più che altro perché l'IMU sì, riprende in larghissima parte l'ICI, però lo fa con una serie di cambiamenti che non sono immediati, e poi ci sono state ancora fino a poche settimane fa parecchi aggiustamenti, parecchie correzioni. Pensiamo soltanto alla circolare di più di 50 pagine che è stata emanata soltanto agli inizi di maggio, quindi insomma diciamo che siamo veramente ancora un po' con un cantiere aperto, quando mancano, dicevi giustamente tu, pochissimi giorni. Sì. E di tutto questo parleremo anche con l'altro nostro ospite, il notaio Enrico Maria Sironi del Consiglio Notarile di Milano. Bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Naturalmente microfoni aperti agli ascoltatori come sempre, e anche oggi ci aspettiamo davvero una marea di testimonianze da parte vostra. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Se invece ci volete scrivere potete farlo al 349 238 6666, all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it o sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Andremo subito al tema di oggi, però un attimo la borsa oggi dobbiamo guardarla, perché avete sentito nel giornale radio, cioè questo brindisi generale alla formalizzazione da parte della Spagna della richiesta d'aiuto all'Unione Europea, un aiuto che potrà arrivare a 100 miliardi di euro per ricapitalizzare il sistema bancario. Si tratta fondamentalmente di finanziamenti a tassi agevolati senza chiedere in cambio un inasprimento delle misure di austerità, e già si è aperto anche il dibattito in Europa sulle differenti condizioni di trattamento che sono state adottate nei confronti dei diversi paesi che hanno dovuto chiedere appunto questi sostegni, la Grecia a parte, poi c'è stata l'Irlanda. In ogni caso, stamattina la borsa brindava, adesso vedo già un rallentamento, non vorrei che si fosse già esaurito l'effetto Spagna stamattina sui mercati. Comunque Milano è arrivata a guadagnare oltre 2 punti, adesso è a più 0,90, Francoforte mantiene 2 punti di progresso, Parigi più 1,7, Londra in rialzo di 1 punto, la Spagna è arrivata a guadagnare sulla scia del volo che hanno letteralmente spiccato i titoli bancari, quasi 5 punti percentuali, per poi rallentare a circa più 3. In calo anche gli spread, soprattutto i più problematici, il nostro rispetto al Bund, il nostro nel rapporto appunto fra il BTP e il Bund tedesco è arrivato a 422 punti base questa mattina, per risalire a 430-434, è sceso anche quello spagnolo, il rendimento del titolo decennale appunto dalla Spagna rimane comunque intorno al 6%. A Milano i migliori titoli, la Popolare di Milano adesso più 2,79 Intesa, più 2,73 Buzzi Unicem, più 2,59 Monte dei Paschi più 2,51. Tutti i titoli bancari sono arrivati a guadagnare almeno gran parte, i più grandi, quasi 4 punti, qualcuno li aveva superati, adesso vedo un rallentamento anche da questo punto di vista. I peggiori titoli: A2A meno 2,23, Enel Green Power meno 1,59, Telecom meno 1,57%. Chiaramente la borsa la monitoreremo attentamente nel corso di tutta la giornata. Noi però andiamo all'IMU. Cristiano, vorrei farti fare anche come sempre il biglietto da visita della guida in edicola oggi sulle Sole 24 Ore. Sì, certo, oggi con il quotidiano c'è una guida, un inserto che è dedicato all'IMU, diciamo su tutto ciò che non è casa, per intenderci, quindi gli altri fabbricati, uffici, negozi, capannoni, ma anche i terreni, fabbricati agricoli, cascine e aree fabbricabili. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutto ciò che appunto non riguarda le abitazioni, perché tutto sommato in Italia sappiamo che ci sono censite in catasto un po' più di 60 milioni di unità immobiliari, metà di queste sono abitazioni, il resto sono unità immobiliari diverse. E poi ci sono tutti i terreni, e quindi anche questo è un tema abbastanza importante. Sempre sul giornale di oggi però abbiamo anche una pagina che spiega come compilare il modello F24. Non è nella guida, lo segnalo, è a pagina 5 del quotidiano. Esatto, così è proprio nella all'interno del giornale. E poi c'è anche una selezione di risposte nell'Esperto Risponde, che è l'inserto del Sole 24 Ore del lunedì, tutte dedicate all'IMU. In questo caso molte sono riguardo le abitazioni, le famiglie e così via. Un commento dal punto di vista tecnico al notaio Sironi rispetto a tutte quelle che sono le aree grigie di questo adempimento fiscale. Notaio, insomma, quali sono i dubbi che secondo lei sono stati definitivamente chiariti e che cosa ancora renderà particolarmente problematica questo pagamento, questo versamento appunto ai contribuenti da qui al 18 giugno? Allora, dubbi definitivamente chiariti. Di definitivo abbiamo imparato che c'è ben poco, parlando di IMU. Comunque, credo che si possa dire che abbiamo sufficientemente chiarito le questioni relative all'abitazione principale, quindi sia l'aliquota che le detrazioni che le modalità per effettuare il pagamento in tre rate. Rimangono una serie di zone grigie, per esempio per tutti gli eventi che possono verificarsi nel corso dell'anno e che determinano modifiche nella determinazione dell'importo da pagare. Ci può fare un esempio per capire meglio? Facciamo un esempio per capire meglio. Al 1 gennaio del 2012 io ho una abitazione in corso di ristrutturazione. La ristrutturazione termina il 31 di maggio. Con la ristrutturazione presento un nuovo accatastamento con una nuova rendita catastale. Chiaramente devo aver rifatto completamente il volto di questa casa per cambiare... Completamente proprio no, diciamo, però, in modo sostanziale tale da determinare una modifica della rendita. Bene. Pagherò con quale valore di riferimento? La norma dice che si paga con riferimento al valore catastale al 1 gennaio, e quindi se io ho ristrutturato e ricavato un immobile completamente diverso, che quindi ha aumentato valore, eccetera, certo, non dovrò pagare nessuna differenza? Punto interrogativo. La cosa sembra un pochettino strana. Allora, secondo lei che cosa succederà adesso? Che siccome da qui al 18, a meno che non arrivi un chiarimento, immagino che i contribuenti pagheranno sulla base della rendita catastale all'inizio dell'anno, potranno poi disciplinare e regolarizzare la loro situazione con il secondo acconto o con il conguaglio di dicembre? Confido che accada così e precisamente confido che nel decreto ministeriale, che ancora non è stato emanato, che deve contenere le modalità per effettuare la dichiarazione al comune, quella da fare entro 90 giorni dal momento in cui si verifica un evento modificativo, in quel decreto ministeriale la legge dice saranno contenute anche le specificazioni di quando si deve fare questa dichiarazione. Ecco, confido che lì verrà fornito questo chiarimento. Benissimo, chiaramente speriamo che i contribuenti non vengano penalizzati con delle contestazioni rispetto al primo acconto pagato. Cristiano, mi sembrerebbe qualcosa di folle. Ma... Certo, diciamo che l'orientamento che è stato dato dal sottosegretario Vieri Ceriani è abbastanza comprensivo. nel senso che, consapevoli della complicazione della norma, per esempio, hanno detto che si cercheranno di non sanzionare gli errori di calcolo nel primo acconto, anche se poi è abbastanza difficile determinare qual è l'errore scusabile e quale no, però diciamo che la volontà mi sembra quella di essere tutto sommato comprensivi. Se vuoi ti posso fare un altro esempio, certo, che riguarda, perché questi capiamo sicuramente una meglio. Differenza, questo non è un caso incerto, ma è una differenza rispetto all'ICI che potrebbe trarre in inganno alcuni contribuenti, che riguarda sempre i fatti avvenuti nel corso dell'anno. Mm-hmm. Immaginiamo che io la casa la compri al primo di maggio e quindi di fatto la possiedo, se facciamo riferimento al primo semestre, solo per due mesi. Mm-hmm. Allora, con l'ICI io mi limitavo a pagare l'acconto su due mesi di possesso a giugno, perché l'acconto di giugno era in qualche modo l'acconto dei primi sei mesi. Con l'IMU invece il calcolo cambia, io devo considerare otto mesi di possesso, diciamo dal primo maggio alla a fine dicembre, dell'anno, e dividere per due l'importo. Ah, ecco. E quindi la pago non più su due mesi ma su quattro mesi, e questa è una differenza che è stata inserita nella circolare 3 del Ministero, del Dipartimento delle Finanze, ma è una differenza che appunto cambia la prassi rispetto a quello che accadeva con però l'ICI. Non è una zona grigia, perché è chiaro, no, il principio. No, esatto, questo ecco. È chiaro, è però una cosa che, vedendo anche un po' le domande che ci sono arrivate, a molti utenti è sfuggita. Quindi certamente, perché magari pensavano di dover fare il pagamento, esatto, secondo la vecchia disciplina, quindi sulla base del primo semestre, l'acconto, esatto, relativo al primo semestre, invece no, i secondi otto mesi. Ho comprato la prima casa, ci scrive Giuseppe, un ascoltatore che ci segue moltissimo, nel 2011 in un comune diverso dallo stesso in cui abitavo. Io ho pagato l'ICI come altro fabbricato, non essendo ancora residente. Com'è possibile che abbia pagato l'ICI? Beh, certo, perché per questa casa ancora l'ICI era... Non aveva la residenza, quindi era una seconda casa ed era tassata dall'ICI. Era tassata, c'era. Allora, il 15 marzo di quest'anno sono diventato residente nel nuovo comune dove ho comprato casa. Ai fini del calcolo dell'IMU, come devo considerare i due mesi nei quali non ero ancora residente, gennaio e febbraio 2012, nel nuovo comune? Sulla base della regola che abbiamo appena indicato, Cristiano? Allora, sulla base di questa regola lui pagherà per i primi due mesi come se fosse... seconda casa, quindi pagherà l'acconto con l'aliquota allo 0,76% o 7,6 per mille che dir si voglia. Poi dal mese di marzo in avanti pagherà come abitazione principale, quindi con lo 0,4% e le relative detrazioni. In questo caso la detrazione di 200 euro dovrà essere ragguagliata al periodo di possesso, quindi non saranno 200 euro interi, totali, ma sarà 200 diviso 12 moltiplicato per 10, cioè per i mesi in cui effettivamente lui è residente nella casa. Attenzione, ovviamente ci vuole, questa è una cosa importante per l'IMU, ma credo che nel caso del nostro ascoltatore sia così, ci vuole residenza e dimora, quindi non basta che lui abbia preso la residenza se poi magari continua a stare da un'altra parte, ma da quanto ho capito è probabile che sia andato ad abitare effettivamente nella casa. Molte le situazioni complesse anche relative a quei nuclei familiari che si sono in qualche maniera sciolti negli ultimi tempi, quindi coniugi separati, qualche volta non completamente ma magari formalmente, proprio per ottenere tutta una serie di benefici fiscali. Allora, a notaio Sironi, leggo questa domanda di Enrico che ci scrive a salvadanaio@radio24.it. Nel caso di separazione dei coniugi, chi è considerato soggetto passivo d'imposta nel caso in cui la proprietà dell'immobile oggetto di assegnazione al coniuge sia di metà del coniuge non assegnatario e metà della madre del coniuge non assegnatario? È riuscito a seguirmi? Metà del coniuge non assegnatario e metà della mamma. Del coniuge non assegnatario, okay. Sì. Ok, direi che il soggetto passivo in questo caso dovrebbe essere per il 50% il coniuge assegnatario, in quanto sappiamo che la normativa IMU prevede che in caso di assegnazione dell'immobile a uno dei coniugi, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario indipendentemente dalla proprietà. Il 50% di proprietà della suocera, della mamma del coniuge non assegnatario, quindi della suocera, io riterrei che si debba considerare seconda casa e che soggetto passivo sia il titolare del diritto, in quanto a monte c'era un diritto di comodato. Posso chiedere più banalmente che cosa vuol dire essere considerati soggetto passivo d'imposta, chi non la paga? Che no, il soggetto passivo è chi deve pagare. Ah, chi deve pagare, cioè, per ovvio. Cioè. Colui che paga. Diciamo. Colui, mamma mia. Quindi attivo nel pagamento e passivo in... Vabbè, comunque. Bene, allora no, questo per dirvi, siccome questa mail ce l'ha scritta, da quello che capisco, un commercialista di Torino, che è appunto Enrico che saluto, evidentemente qualche cliente gli avrà fatto questa domanda e anche lui non avrà avuto molta elasticità nel poter capire come poter orientare il contribuente. In questo caso il dubbio che potrebbe venire, ma insomma il notaio ci ha prospettato una soluzione, è che il diritto di abitazione che la legge riconosce al coniuge assegnatario della casa sia un diritto che in qualche modo copre tutto l'immobile e non soltanto la quota di proprietà del marito, per intenderci, della casa che è stata assegnata alla moglie, un po' come potrebbe succedere ad esempio nelle case ereditate, per cui il coniuge superstite, se la casa appunto finisce, appunto continua a essere abitata dalla vedova, anche se ci sono delle quote di proprietà che sono andate ai figli, l'IMU la paga tutta la vedova. Quindi penso che qui si chiedeva se si potesse fare un'analogia tra questi due casi, e a sentire il notaio sembrerebbe di no. Insomma, comunque siamo sempre nell'onda delle nostre interpretazioni. Allora ci fermiamo adesso, ci sono i primi spot pubblicitari, poi andiamo ad Enrico da Trieste, a Giorgio da Padova, a tutti gli altri ascoltatori che stanno prenotando i loro interventi all'800240024. A tra poco. Quante telefonate, quante mail ci stanno arrivando da parte vostra questa mattina, non avevamo nessun dubbio, segno che ancora navighiamo un po' nell'incertezza per quello che riguarda il calcolo dell'IMU e dobbiamo sbrigarci perché praticamente il 18 giugno dobbiamo andare a versare con l'F24 semplificato, notaio Sironi. È tanto semplice questo modulo con cui dobbiamo versare il primo acconto dell'imposta municipale unica? Insomma, tanto semplice mica troppo. Ovviamente non è tanto semplice perché bisogna un po' abituarsi a utilizzare questo modulo, bisogna indicare i codici tributo che sono diversi secondo che sia prima casa o che sia un immobile diverso dalla prima casa. Nel caso di immobile diverso dalla prima casa, inoltre... Ce ne sono 10 in tutto di codici tributo con cui prendere confidenza per orientarsi in questa scadenza, sì. Certo, e dicevo, mentre per la prima casa il codice tributo alla fine è uno solo perché l'imposta viene tutta versata al comune, per le altre tipologie di immobile l'imposta va per metà al comune, per metà allo Stato, e quindi bisogna spezzare, diciamo così, il versamento con i due codici tributo. Bisogna poi considerare che l'F24 ha fatto uno per ciascun contitolare e quindi in caso di più intestatari dell'immobile occorre avere tanti versamenti F24 e quindi insomma, però la pagina del 24 ore di oggi devo dire che è fatta veramente bene. Ecco qua, molto bene, e non l'ha fatta Cristiano, tra l'altro credo che abbia solamente supervisionato quanto hanno scritto due esperti del Sole 24 Ore, Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi. Peraltro Valcarenghi sarà con noi domani a Salvadanaio perché domani ci occupiamo anche della dichiarazione dei redditi, quindi a che punto siete, soprattutto qui c'è stato uno slittamento dei termini per poter versare l'acconto di unico, non più il 18 giugno ma è stato appunto procrastinato di qualche giorno, però occorre fare un po' di chiarezza anche da quel punto di vista. Cominciamo a sentire i nostri amici che ci seguono da casa. Allora, c'è una domanda che piaceva tanto a Cristiano Dell'Oste, le abbiamo visionate e quindi ce la sentiamo subito, è quella di Angela da Milano, linea 5. Angela, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono proprietaria di un immobile nel comune di Milano che è per me una seconda casa, nel senso che l'ho affittata da qualche anno con quel tipo di contratto canone concordato 3+2 secondo la legge 431, no? Quindi è un canone calmierato, lo chiamano. Per questa tipologia appunto di contratto avevo diritto fino allo scorso anno ad un'aliquota agevolata al 4 per 1000. Volevo chiedere intanto se hanno considerato ancora questi immobili per per quanto riguarda l'aliquota, se è stata considerata ancora dal Comune di Milano un'aliquota agevolata. Grazie. E poi volevo chiedere, dato che il contratto di affitto mi si è risolto al 31 maggio, in che maniera farò il calcolo del primo acconto? Ecco. Allora Angela, allora intanto bisogna capire se affitto o non affitto, l'aliquota su questa casa è l'aliquota che vale per la seconda casa, Cristiano, allora, e nulla... Partiamo dalla seconda questione, cioè dal calcolo dell'acconto, che in questo caso è più semplice, perché l'acconto viene comunque calcolato secondo le aliquote nazionali, quindi le decisioni del Comune di Milano in questo caso non entrano in gioco. Perciò farà semplicemente lo 0,76%. Per quale motivo? Perché che la casa sia affittata o che la casa sia vuota, dal punto di vista dell'aliquota nazionale, nulla cambia. Nulla cambia. È una seconda 0,76. Casa, 0,76. Punto. Ovviamente 0,76 diviso 2, perché in questo caso l'acconto è del 50%, non si può scegliere la rateazione in tre tappe, quindi si pagano due rate, giugno e dicembre. Ottimo, non tanto, però ecco. Questo è abbastanza semplice. Ed è chiaro. Allora, poi invece l'altra questione che ha sollevato l'ascoltatrice in realtà ha una valenza molto più generale, perché in tantissimi comuni italiani, per chi faceva un contratto a canone concordato, quindi accettava di incassare un affitto un po' più basso, venendo quindi incontro all'inquilino, era concesso da parte del comune uno sconto sull'ICI. E questo era il caso di Milano. Questo no? era il caso perché di Milano, ma che si fermava al 4 per 1000, era uno sconto tra i meno generosi d'Italia, perché ad esempio a Torino c'era l'1, a Bologna era addirittura 0 l'ICI per questi immobili. Quindi c'erano tanti comuni che avevano delle agevolazioni. Adesso la legge stabilisce che il comune può sì ridurre l'aliquota, ma al massimo al 4 per 1000, che ovviamente è molto di più di quello che si andava a pagare ad esempio a Bologna o a Torino, ma anche a Milano, perché il coefficiente di moltiplicazione del valore catastale aumenta, quindi il 4 per 1000 dell'IMU sarebbe comunque il 60% in più rispetto al 4 per 1000 dell'ICI. Quindi questo è il primo aspetto. Poi per la decisione specifica del comune bisogna attendere il 30 di settembre, perché ricordiamolo, anche laddove il comune avesse già deliberato delle aliquote in giunta o ci fosse già un dibattito, se avesse deliberato un'aliquota più leggera per i contribuenti che danno in affitto un'abitazione anche secondo il principio del canone concordato, è possibile? Quindi è possibile, però non oltre il minimo del 4 per 1000, non si può scendere sotto questa soglia. Quello che stiamo vedendo è che nella maggior parte dei casi i comuni stanno ben al di sopra, e che ad esempio dove ci sono delle agevolazioni si fermano magari al 7,6 per 1000 per i canoni concordati e salgono ancora di più per i canoni liberi. Quindi comunque, Angela deve pagare la metà dello 0,76%. Per adesso. E poi, quando ci sarà il momento dell'acconto, quindi 17 dicembre, andare a vedere... Del saldo, chiedo scusa, certo. Andare a vedere che cosa avrà deciso il comune, perché anche le decisioni che i comuni stanno prendendo in questi giorni potranno essere corrette fino al 30 di settembre. Quindi ci sarà comunque un margine di manovra anche da parte dei sindaci. Andiamo a sentire adesso, allora proviamo Giorgio da Padova, perché naturalmente è una condizione quella di Giorgio nella quale si trovano molti ascoltatori e ai quali però purtroppo non possiamo dare risposte positive. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Una domanda, per piacere. Quelle persone che si trovano in cassa integrazione 800 euro al mese, monoredditi con figli a carico e via discorrendo, con mutui, proroghe, eccetera, eccetera, nel caso in cui non avessero i soldi per pagare l'IMU, cosa succede? Grazie mille. Giorgio, grazie. Purtroppo non c'è nessun tipo di provvedimento a sostegno di questi nuclei familiari. L'unica cosa, perché Giorgio poi qui non ce l'ha raccontato, ma vedo nell'anticipazione della domanda che avrebbe voluto farci, ha chiesto anche la sospensione del mutuo, e qua l'unica cosa sulla quale può far leva sono le detrazioni per i figli. Notaio Sironi, mi pare che comunque altri provvedimenti per le famiglie svantaggiate non ce ne siano. Se si ha. Non ci sono altri provvedimenti, quindi se proprio non riesce a pagare, purtroppo poi incorrerà nelle sanzioni. Ecco, tra l'altro vogliamo fare un punto della situazione. Quali sono, notaio, per chi è in ritardo con il pagamento, magari per chi il 18 giugno si trova fuori casa e dice vabbè la pago il 20, tanto non mi succede niente, no? Non è così semplice. No, non è così semplice. Come al solito per le sanzioni c'è una pluralità di casistiche da considerare, quindi non è così semplice. Diciamo che essendo un pagamento da effettuare in più rate, Ci può essere forse anche quest'anno, alla luce di quanto ci riferiva prima dell'oste rispetto all'atteggiamento annunciato dal Ministero, ci potrà essere la possibilità anche di lavorare sugli errori di calcolo, sulla confusione eccetera, ma in ogni caso il mancato versamento determina delle sanzioni che aumentano in rapporto al tempo decorso da quando il pagamento doveva essere effettuato quando effettivamente è stato effettuato. Non si può fare nessun ravvedimento per un ritardo sul pagamento dell'IMU? C'è il ravvedimento anche per il ritardo del pagamento dell'IMU e anche lì va verificato caso per caso. Allora, ascoltatore, un architetto ci scrive: ma potete parlare anche della scandalosa esenzione dal pagamento dell'IMU per alcuni soggetti, costruttori, fondazioni bancarie, enti ecclesiastici? Guardi, sono stati spesi fiumi di inchiostro su questo argomento, noi andiamo ad occuparci invece dei contribuenti che vogliono regolarizzare la loro posizione cristiana, però certo che ci sarebbe molto da dire, così come ci sono tante altre incongruenze che sono state sollevate spessissimo dai giornali negli ultimi giorni, come per esempio il fatto che stamattina mi era andato l'occhio proprio sulla questione per esempio dei nuclei familiari che si prendono cura di figli disabili e magari hanno un'età superiore ai 26 anni e non possono beneficiare della detrazione fiscale di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26. Ma certo, questo è un problema che tra l'altro il Parlamento aveva messo sotto esame, nel senso che era stato varato qualche mese fa un ordine del giorno che avrebbe dovuto impegnare il governo a estendere la detrazione dei 50 euro anche a chi assisteva, diciamo, aveva in casa dei disabili di età superiore ai 26 anni, perché questo è un problema oggettivo e di fatto questi soggetti, queste famiglie oggi non hanno un aiuto. Va detto peraltro che i comuni potrebbero, volendo nell'ambito della propria autonomia, intervenire in questi casi per aumentare la detrazione, quindi dove non è arrivato lo Stato, se vuole può arrivare il comune. Per quanto riguarda il non profit, in realtà posso dire che noi abbiamo una pagina nella guida che abbiamo pubblicato oggi che si occupa di quello e diciamo che con una situazione che in realtà è piuttosto complicata perché la norma non è chiara, in realtà per il 2012 la disciplina dell'IMU sul non profit è tutto sommato abbastanza severa, nel senso che per avere l'esenzione l'attività dovrà essere svolta in modo esclusivamente non commerciale, quindi tutti quei casi in cui ad esempio c'è una struttura ricettiva, magari una casa gestita da una diocesi, una casa vacanze, con all'interno una cappella, in quel caso sarà solo dal 2013 che si potrà scorporare la superficie della cappella per considerarla esente. Quest'anno in teoria dovrebbe pagare per intero. Il problema sarà appunto il fatto che la norma non è chiarissima per come è scritta e quindi sarà difficile per i comuni andare ad accertare l'imposta, ma se i comuni lo vorranno avranno buoni margini per intervenire già dal 2012. Ritorniamo ai nostri contribuenti che però stanno facendo il calcolo e che, esenti o non esenti, invece devono pagare entro il 18 giugno. Enrico da Trieste, buona giornata, ci racconti. Grazie per avermi chiamato, saluto i suoi ospiti. Grazie. Senta, io oltre alla prima casa ero proprietario di un altro appartamento che ho venduto il 20 marzo di quest'anno con contratto notarile. Tre mesi prima, a fine dicembre 2011, avevo stipulato un patto di vendita, o meglio un preliminare di vendita, con atto notarile debitamente registrato. Ora, in questo preliminare di vendita era stabilita la consegna dell'appartamento a quella stessa data al futuro acquirente, per cui nell'anno 2012 io non avevo più la disponibilità dell'appartamento. Mm. C'è una tipologia per questo caso? Certo, devo pagare per questi tre mesi? Che cosa vale, il contratto preliminare di vendita o il rogito, cioè il contratto preliminare fatto nel 2011 o il rogito stipulato il 20 marzo 2012? Notaio Sironi, qui siamo assolutamente nel suo campo. Certo, vale sicuramente il rogito, cioè il contratto definitivo, perché la proprietà si trasferisce con l'atto di vendita e quello che rileva è la proprietà. Quindi siamo in una situazione in cui per i primi tre mesi di quest'anno quota deve pagare Enrico, quindi praticamente un quarto dello 0,76 per mille, Cristiano. Aspetta, facciamo il conto, intanto andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Va bene, a dopo. Salva Danaio. Ho mandato in confusione Cristiano dell'Oste con tutte le mie frazioni. Allora, intanto 0,76 per cento e 7,6 per mille. Prima cosa, questa è l'aliquota ordinaria per la seconda casa. Esatto. Per quello che riguarda invece Enrico da Trieste, deve pagare la metà. Deve pagare, lui calcola sostanzialmente l'imposta ragguagliata al periodo di possesso, quindi lui calcola quanto dovrebbe pagare con lo 0,76 per i tre mesi in cui è stato proprietario della casa e poi fa il 50%. Perché deve pagare solamente l'acconto e quindi la metà. Per la seconda casa si paga in due rate solamente, e quindi speriamo di aver chiarito, nonostante io abbia fatto di tutto per complicarle appunto le cose a Enrico da Trieste. Poi volendo possiamo fare anche ricordare una regola generale che è utile in tutti i casi in cui c'è una situazione che non dura per tutto l'anno. Allora, il mese si considera intero quando la situazione, ad esempio in questo caso la proprietà del nostro ascoltatore, dura per 15 o più giorni. Quindi siccome lui la casa l'ha venduta il 20 di marzo, per lui marzo è un mese intero. Intero, certamente. E lo stesso vale quando ad esempio si vende, si compra, ma anche per quando un figlio cambia residenza, o quando prende residenza il proprietario, o quando nasce un figlio. Se ci si mettessimo a frazionare anche gli importi sulla base delle settimane di possesso, sarebbe veramente sarebbe complesso. Luigi da Parma, buongiorno, ritorna sull'F24. Buongiorno. Ah, buongiorno, salve, sono Luigi da Parma. Sì. Senta, prima di tutto complimenti per il contributo che ci dà a sciogliere i dubbi. Grazie. E poi riguarda la combinazione dell'F24, arrigo praticamente detrazioni. Praticamente io sono proprietario di un appartamento per il 50%, l'altro è mia moglie. Ho scelto di pagare in rate per tre rate. Ora, l'importo da indicare come detrazione, cioè il totale è 250 euro. 200. Ho una figlia, quindi... Ah, 250, sì. Sì. Ora, pagando in tre rate, devo considerare la metà e poi devo dividere per tre. È quell'importo da indicare nel riquadro detrazione, oppure è lì un po' un dubbio. Aspetti lì Luigi, guardi, Cristiano si è appuntato tutto, praticamente le ha fatto una compilazione live in diretta dell'F24 per il suo caso. Sì, facciamo allora partiamo dall'inizio, diciamo. Il nostro ascoltatore ha 250 euro di detrazione, perché sono 200 in famiglia più 50 per la figlia. Per la prima figlia. Quindi per la figlia, sì. 250. Poi è proprietario però al 50%, quindi la detrazione che gli compete è 125 euro per tutto l'anno. Siccome sceglie di dividere in tre il pagamento, deve dividere in tre anche la detrazione. Quindi fa 125 diviso 3 e riporta nel modello F24 il risultato della divisione senza virgole, arrotondato. Questa è l'ultima cosa in che dobbiamo ricordarci. In eccesso, naturalmente. No, arrotondato dipende. 50, allora, cioè fino la a 0,49 all'unità precedente, da 0,50 all'unità superiore. Quindi adesso, se non sbaglio i conti, 125 diviso 3 dovrebbe essere 42. Comunque 4, lo faccio 8, con 12, la calcolatrice, sì, che io l'ho fatto a mente. Un filino meno anche. Benissimo, andiamo adesso a Cristina dalla provincia di Belluno. Buongiorno Cristina. Sì, buongiorno, grazie per lo spazio. Grazie a lei. Dunque, io volevo porre una domanda, perché la mia commercialista mi ha fatto confusione. Dunque, poveretti, anche loro, guardi. Indubbiamente. Allora, la proprietà di un appartamento che è suddiviso al 50% tra due persone, di cui c'è l'usufruttuaria che è la mamma di entrambi. Mi è stato detto che uno dei due, che vive da un'altra parte perché è sposato, se ha la comunione dei beni deve pagare praticamente l'aliquota come se fosse una seconda casa, se invece c'è la divisione dei beni, l'aliquota che deve pagare come prima casa. Allora, aspetti lì Cristina, che io, anche tentando di prendere appunti, mi sono persa, però sono sicura che il notaio Sironi avrà memorizzato tutto nel dettaglio. Allora, io spero di aver capito. Semmai abbiamo Cristina e le riformuliamo la domanda, ci facciamo chiarire le cose. La domanda fondamentale è questa: la mamma ha l'usufrutto al 100%? Cristina. L'usufrutto, sì. Se la mamma ha l'usufrutto al 100%, l'IMU lo paga tutto la mamma. E quindi non ci interessa nemmeno andare a vedere comunione, non comunione dei due figli. Paga l'IMU la mamma, se per la mamma è prima casa lo pagherà con l'aliquota del 4 per 1000, se è seconda casa col 7,6, se è prima casa la detrazione di 200 e via, regole normali, ma paga la mamma. Cristina, è chiaro? Molte. Benissimo, grazie, molte. Grazie a lei. Allora grazie, andiamo a Giancarlo da Cesena. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Sì, ci racconti. Il mio problema è questo: l'appartamento dove abito ha due rendite catastali, in quanto, quando è stata costruita la casa dove abito, da una parte abitavo io, vicino c'era l'appartamentino dei miei genitori. Sì. Quando i miei genitori sono morti, siccome il mio appartamento era abbastanza piccolo, mi sono allargato e adesso è un unico appartamento. Ah. con due rendite catastali. Sono andato a sedere in comune e loro mi hanno detto che la casa dove abito, una parte è prima casa, l'altra parte è seconda casa, quella che ha unito quindi in un secondo. 040076. Ah, e lei voleva sapere, è vero o non è vero? Voleva sapere se è vero o non è vero, perché se ricordo bene, in una vostra trasmissione, ma avete anche detto che non è necessario riaccatastare tutto quanto, che è quello che mi hanno detto in comune, ma solo fiscalmente. Guardi Giancarlo, credo che probabilmente abbiamo detto questo, perlomeno se lo ricorda Cristiano Dell'Oste, perché figuratevi se ve lo posso ricordare io, Cristiano, quindi hanno dato un'indicazione giusta al nostro ascoltatore. Il caso del nostro ascoltatore ci consente di fare una precisazione generale, intanto, che è una regola che è stata dettata con l'IMU, che quando gli alloggi sono divisi, anche se di fatto li si usa insieme, solo uno può avere la detrazione come abitazione principale e l'aliquota come abitazione principale, quindi in comune gli hanno detto una cosa giusta. Poi il riferimento che faceva il nostro ascoltatore è una cosa che ha detto qualche puntata fa il geometra Gianni Marchetti. Ah sì, di Agefis. Di Agefis, sì. Esatto, quindi il consiglio è di rivolgersi appunto a un tecnico, a un geometra, perché appunto l'opzione può essere quella o di fondere insieme le due unità, oppure di fonderle insieme solo sotto il profilo catastale, così da poter avere a livello fiscale ordinaria la prima, certo, la e non una porzione con una esatto, con quindi una deve consultare aliquota. Un tecnico e vedere qual è la soluzione migliore. Molto bene, allora ci rimane un minuto di tempo, non ho appunto lo spazio per altri ascoltatori. Notaio Sironi, ci vuole dare dal suo punto di vista un'ultima raccomandazione per andare con serenità verso questa scadenza, prima di raccoglierci in preghiera, prima di compilare l'F24? Ma la mia raccomandazione direi che nel dubbio di essere rigorosi e quindi nel dubbio scegliere la strada che al limite mi fa spendere un po' di più e non quella che mi fa spendere un po' di meno. Perché poi tanto con il conguaglio ci restituiranno quanto abbiamo versato. Tira, speriamo. La ragione in base alla quale io ho dato la risposta al signore di Torino che chiedeva cosa fare in caso di casa assegnata al coniuge separato di cui il 50% era della mamma. Sì. Nel dubbio la regola per non sbagliare, secondo me, ahimè, è pagare sempre un attimino in più. Sperando che arrivino i chiarimenti. Non ci fidiamo tanto di questo Stato, che però non ci restituisce mai quello che abbiamo versato in più, notaio, tutto lì. Quindi capisco anche poi un po' la frustrazione di molti ascoltatori e contribuenti che per stare tranquilli magari vorrebbero anche farlo, però poi non c'è mai la certezza della regolarizzazione a nostro vantaggio in un secondo momento. Comunque grazie, dobbiamo andare alle nostre pillole IMSS. Oggi iniziamo a toccare un tema molto discusso, quello degli esodati. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. È stato firmato nei giorni scorsi l'atteso decreto che stabilisce le modalità per l'accesso al pensionamento dei cosiddetti esodati. Quando diventerà operativo e quanti sono i posti pensione previsti? Il decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia nei giorni scorsi. Diventerà operativo non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento conferma in 65.000 il numero dei lavoratori che potranno accedere al pensionamento secondo le vecchie regole, pur maturando i requisiti dopo il 1 gennaio 2012 e dunque dopo la partenza del sistema previdenziale riformato. Il numero è stato fissato tenendo conto delle stime relative ai potenziali candidati. Grazie a Cristiano Dell'Oste e al notaio Sironi per essere stati con noi. Chissà che sia questa davvero l'ultima puntata sull'IMU, non ci giurerei da qui al 18 giugno. Grazie ad entrambi. Salva Danaio torna domani di nuovo sulla dichiarazione dei redditi, però. Buona giornata a tutti.